I miei uomini misurano tutto con loro. Ma per me conta solo il potere. L'oro lo lascio ai servi. Io vengo dal fuoco, io non vengo dall'argilla. Pasta colombiana come vaniglia, tutto in velluto, non rocco le gilda. Young trap, siamo una gilda, meglio in prigione che finire all'ilva. A chi mi odia gli manderò l'Iban, terribile, non mi chiamo Ivan. Dragger, io non bevo IPA, shooter calvi come Hitman. Picchiatori come Hipman, rosso sangue, metto firma, vedo triplo, paste lilla. Naso sporco non è cipria, estero vestizione, mi pagano in dirham. Due cavalli tipo biga, due calash sopra un pickup. In Puglia più bombe che nel Donbass. Siamo armati più armati di Hamas. Allucinato come una Pash, tra lume Dio come Braxas. 25 colpi come un Famas. Evasione è la mia flat tax. Legge di Cristo come il Far West. Spericolati come in Chacas. Dirham, euro, franchi, peso. Abbasso il prezzo come aumento il peso. I soldi non mi hanno mai offeso. Ma io gonfio come un obeso. Yen, pound, dinari, dollari. Conto tanto mi rovino i pollici. Soldi nel muro rovino gli immobili. Cambia paese se mi nomini. Euro, dirham, dinar, khalis. Attento alle tue percentuali. Volto coperto, talebano. Armati come talebani. Auto rubata, spegni i fanali. Cancella codice telaio. In galera sono apparecchiato. Vendo fumo ai carcerati. In zona come Rogoredo. L'ecco è piena di tossici. Non fate rap boy, voi fate gossip. Pirazzi, come i somali. Omici mati, malati piromani. Sono fettomobile, guido fissantrovi. Mischio, rivo con alcolici. Dirham, euro, franchi, peso. Abbasso il prezzo come aumento il peso. I soldi non mi hanno mai offeso. Ma io gonfio come un obeso. Yen, pound, dinari, dollari. Conto tanto mi rovino i pollici. Soldi nel muro rovino gli immobili. Cambia paese se mi nomini.